che un ragazzo possa partecipare a queste prove che le valgono sull'università della regione, in modo tale da privilegiare veramente i migliori. L'altra cosa che su cui si pensa di lavorare è di abbinare la prova di medicina e di odontoiatria, non a caso è stato fissato lo stesso giorno, in modo tale che un ragazzo possa utilizzare, diciamo, l'abilitazione ottenuta odontoiatria per medicina in base al punteggio che ha ottenuto. Altre cose su cui si sta lavorando è tener conto anche del curriculum dei giovani per la parte liceale. Come lei sa, sono stati introdotti da poco, e già da quest'anno, dei crediti che vengono dati per il percorso formativo che i ragazzi hanno fatto negli ultimi 3 anni di liceo, oltre magari a tener conto anche del voto di maturità, normalizzato però, perché sappiamo che c'è una diversità fra regione e regione, e questo è un elemento, diciamo, importante, che vale non solo per questa fase ma anche in futuro per l'accreditamento dei corsi universitari. Una sorta di invalsi anche per le superiori, quindi, che potrebbe valere per accedere all'università. Sì, ma c'è un'indicazione, il ministro lo ha ribadito, di portare alle medie e poi anche al liceo. Cioè, noi abbiamo un grosso problema che di omogeneizzare la valutazione, perché si vede che statisticamente i voti sia dei licei che delle università sono molto disomogenei. Ora, specificamente per questi corsi che sono a numero non chiuso, ecco, questione di precisità, il numero chiuso dà un'idea sbagliata, sembra che si è un numero programmato, perché i numeri di questi posti vengono decisi dalle regioni, dal sistema sanitario regionale, in base alle esigenze, e vengono indicati, il ministro poi le ridistribuisce alle università per farli, quindi è programmato a garanzia non solo di non produrre troppi di questi specialisti, ma soprattutto a garanzia della qualità formativa di questi ragazzi. Un corso di medicina dura 6 anni per 5 di specializzazione. Questi ragazzi non è che studiano sui libri e basta, devono fare corsi di specializzazione, lavorare nelle cliniche, negli ospedali, nei policlinici, e quindi non è che possono essere infiniti. Il numero programmato tiene conto anche delle strutture che garantiscono con il livello formativo di questi ragazzi. Per architettura parte la sperimentazione fra Napoli e Salerno, per medicina Udine e Trieste saranno le prime a sperimentare un test d'ingresso unico regionale. Il preside di Medicina di Udine, il professor Massimo Bazzocchi, ancora al microfono di Romolo Napolitano. La logica è quella di consentire un accesso ai migliori, sostanzialmente. Mi spiego meglio, prima di questo accorpamento, quando si trattava di esami separati, poteva capitare che l'ultimo degli esclusi di un ateneo, di Udine, avesse un punteggio grazie al quale avrebbe potuto invece entrare in altri atenei. L'ideale sarebbe avere un'unica lista nazionale. In questo modo, ovviamente, entrerebbero effettivamente i migliori, diciamo, in tutta Italia. Così almeno si è cercato di uniformare a livello regionale, consentendo quindi che non ci siano disparità fra due atenei vicini come Trieste e Udine, no? Per gli studenti quindi lei lo vede come un miglioramento? Assolutamente sì, anzi sono più garantiti, cioè non è che debbano, per dire, ho più probabilità di entrare a Trieste, Udine, cosa faccio, provo di qua, provo di là, no, si iscrivono, iscrivendosi all'esame a Udine o a Trieste è la stessa cosa. È un cambiamento che lei, come diceva, auspica anche per il resto degli atenei italiani? Sì, potrebbe essere, sì, certamente, almeno a livello regionale, ma potrebbe essere più corretto anche addirittura a livello nazionale. Questo creerebbe, sì, che vantaggio avrebbe, no? Che lo studente possa scegliere per l'ateneo che ritiene migliore, e non solo per ubicazione geografica e logistica, no? Perché mettiamo che Mario Rossi arrivi primo in graduatoria di tutta Italia e dica: ma secondo me, a me piacerebbe fare la facoltà di medicina alla Sapienza di Roma, perché ritengo che lì c'è il non plus ultra oppure a Tor Vergata piuttosto che a Torino, a Milano, che ne so. A questo punto lui potrebbe optare, per cui gli atenei, le facoltà migliori, avrebbero i migliori, cioè quindi ci sarebbe un incentivo, uno sprone alle facoltà a farsi conoscere, a migliorare, eccetera, per catturare gli studenti migliori. Non tutti però sono d'accordo sulle nuove regole. Giovanni Zamponi, rappresentante di LINC, coordinamento universitario degli studenti, nato dal movimento dell'onda. La graduatoria a diciamo unica, il principale problema è che sì, è vero, magari ho il punteggio per andare in un'altra città, però quando si parla dei problemi veri che riguardano gli studenti, cioè il fatto che magari non ho i mezzi economici per potermi spostare in un'altra città. E questo è chiaramente un problema che riguarda molti studenti, cioè, quindi se è vero che viene data la possibilità a alcuni studenti di poter accedere all'università e al corso di laurea che vogliono fare, però non viene in nessun modo annunciato al ministro Gelmini con quali mezzi quello studente potrà trasferirsi e andare a studiare in un'altra città, perché o ha i mezzi economici per farlo oppure semplicemente non ci andrà, quindi in realtà è un po' una bufala. Era la seconda edizione di Italia in Controluce, cercateci ogni giorno su Facebook, Twitter. Torniamo lunedì 23 maggio alle 6:30 su Radio 24 con nuove storie.